This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Razmičeš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj, oh. Ti si sad moj, oh. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se. Probudi se, pokreni se. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Ti si sad moj bol. Il rock jugoslavo nasce all'inizio degli anni 80 con in seguito comunque a una situazione in Jugoslavia abbastanza complessa. Era appena morto Tito, è morto nel 1980 dopo 30 anni di governo, e a un certo punto la Jugoslavia si trova senza un leader, si trova con 6 popoli diversi, di cui uno con 2 province autonome, con scontro tra religioni, tra musulmani e ortodossi, tra la rivalità eterna tra serbi e croati, tra 4 alfabeti diversi, tra un sacco di etnie che sono residenti nelle varie repubbliche e che sono in dissidio naturalmente con gli abitanti delle repubbliche. È una situazione abbastanza complessa, cominciano a nascere tensioni, comincia a sentire l'odore della forza civile. Insomma, in Jugoslavia all'inizio degli anni 80 non se la passavano bene. Vigeva una certa critica dal punto di vista artistico a quello che è stato per anni il Partito Comunista di Jugoslavia. Alcuni di questi gruppi fondarono tra la Croazia e la Serbia un vero e proprio movimento musicale di chiara ispirazione britannica, come quasi tutti in quegli anni. Nasceva quindi la New Wave Jugoslava, la Novi Val, con gruppi come gli Alza, che fecero nell'81 un album che potremmo paragonare al London Calling britannico, si chiamava Sunciana Strana Ulice. È un album che suona tra i più disparati generi ed ha allo stesso tempo una potenza incendiaria. I live degli Alza erano pazzeschi, uno dei gruppi live probabilmente più energici della storia della musica, forse, e nessuno li conosceva. Molti di questi gruppi che creano questa scena a metà tra Zagabria e a metà tra Belgrado, in tutto il mondo non sono stati conosciuti. Tutt'oggi questi gruppi molto validi non sono conosciuti. A Belgrado, tra i vari gruppi che nacquero in quegli anni, ci fu una collaborazione tra tre gruppi che erano particolarmente amici fra loro. Questi gruppi si chiamavano Idoli, si chiamavano Electricity Orgasm, e l'altro si chiamava Sharo Acrobata. Nei Sharo Acrobata suonava la chitarra un musicista che sarà destinato a fare la storia non solo del rock jugoslavo, ma anche di un certo tipo di fare denuncia artisticamente di certe questioni che giravano in Jugoslavia in quegli anni. Sì, dopo tanti anni, si parla degli anni 80, dopo 30 anni, chi è che si ricorda della situazione politica della Jugoslavia negli anni 80? Si è parlato tantissimo della guerra jugoslava, però insomma Tito era veramente una figura molto importante, ex partigiano. Se vedete, basta vedere i suoi funerali, andate su YouTube, cercate funerale di Tito, c'è Arafat che abbraccia la bara di Tito e sembra che sia morto suo fratello, piange come appunto come per un familiare. Era una gran personalità, questo è innegabile. E inoltre aveva contatti e modi di avere, diciamo, favore. Era il primo paese non allineato, quindi riusciva ad avere aiuti dai due blocchi in maniera trasversale e ad accumulare debiti senza che nessuno gli potesse chiedere indietro. Quindi aveva petrolio a prezzo politico, diciamo, della Libia. Ricordiamo che Gheddafi ha fatto la scuola di guerra a Belgrado. E non solo, e tanti altri aiuti, insomma, vivevano di un'economia in parte autarchica, in parte agevolata. Tutto questo ha funzionato fino agli anni Ottanta, poi cominciò il disgelo, non solo Tito, ovviamente, cominciò il disgelo in quegli anni, la cortina di ferro diventava meno importante e la Jugoslavia si trovava con un debito pubblico enorme, paragonabile a quello italiano, ma la Jugoslavia contava 20 milioni di persone, quindi... Se facciamo il rapporto, era un debito pubblico triplo rispetto al nostro, che non è mai stato indifferente. Prego, dottore. Ma tornando agli anni Ottanta, al clima abbastanza infocato che si respirava nei paesi jugoslavi, facciamo anche l'elenco di quelle che erano le sei repubbliche all'epoca in Jugoslavia. La Jugoslavia era formata dalla Serbia, dalla Croazia, dal Montenegro, dalla Slovenia, dalla Bosnia-Herzegovina, che aveva a sua volta due province autonome, che erano il Kosovo e la Vojvodina, e dalla Macedonia. Ripeto, ognuna di queste aveva ampia autonomia, ma aveva anche dei abitanti, delle varie popolazioni esterne a loro che abitavano in quel paese. Ad esempio, in Croazia c'è una minoranza di popolazione serba, lo stesso in Serbia c'è una minoranza di popolazione croata. C'erano dei casi limite, ad esempio in Serbia c'erano praticamente il 20% di popolazione montenegrina, nelle province autonome della Bosnia-Herzegovina c'erano quasi tutti ungheresi in Vojvodina e c'era la maggioranza albanese nel Kosovo. Insomma, erano delle terre di nessuno, e non stiamo citando altre minoranze etniche che c'erano in quei posti. C'erano rumeni, c'erano bulgari, c'era praticamente di tutto, c'era praticamente quasi tutta la minoranza etnica dell'est Europa. Situazione abbastanza caotica. In questa situazione caotica, tornando alla musica, nella scena di Belgrado, prima stavamo citando il Sharo Akrobata, dal quale è uscito questo musicista, Milan Mladenovic. Dopo aver litigato con i componenti del suo gruppo, Milan Mladenovic ne formò un altro con tale Gagi Mialovic, chitarrista anch'egli, e formarono un gruppo chiamato Catalina II. In Catalina II trovarono altri componenti per il gruppo, due di questi, Bojan Peča, il bassista, e Margita Stefanovic, furono quelli che mandarono avanti insieme a Milan Mladenovic il progetto Catalina II, che già dall'anno dopo, con la dipartita del chitarrista Gagi Mialovic, cambiò nome e diventarono gli Ekaterina Velika. Gli Ekaterina Velika presero la tradizione post-punk britannica e la rivoltarono completamente, aggiungendoci le contaminazioni musicali più differenti. Quelle che Ekaterina Velika non si può parlare solo di post-punk, si può parlare di un discorso di rock classico che abbracciava una diversa genealogia di generi. E gli Ekaterina Velika non erano solo ed esclusivamente un gruppo che faceva della concettualità musicale la propria arma di forza. Gli Ekaterina Velika furono praticamente la voce di questi sei popoli. Avevano unificato verso la fine degli anni Ottanta con la loro musica e con i loro testi quello che era l'umore, quelli che erano i toni di praticamente 25 milioni di abitanti. ad aggravare la situazione che c'era in Jugoslavia a metà degli anni Ottanta, ci si mise anche una gravissima crisi economica che si abbatté sulle sei repubbliche federali della Jugoslavia. La crisi economica accentuò i vari conflitti che c'erano tra i paesi, soprattutto quelli che erano più sviluppati, come la Croazia e la Slovenia, e gli altri che non avevano conosciuto questo tipo di sviluppo, incrementando quindi quel livello di nazionalismo che, ricordiamo, in Serbia è sempre stato molto forte, e ne parleremo dopo. Tornando al gruppo di Milan Mladenovic, dopo aver pubblicato con gli Ekaterina Velika due album post-punk di grandissimo livello, il gruppo decise di cambiare abbastanza le coordinate, spingendosi verso un alternative rock più classico. In questa circostanza prende atto un certo tipo di discorso degli Ekaterina Velika, in cui i pezzi e l'intensità dei pezzi comincia a trovare una propria consistenza emotiva molto forte. In particolar modo in Ljubav, album del 1987 degli Ekaterina Velika, Ljubav che tradotto in italiano significa amore, molti di questi di questi testi e molti di questi pezzi sono niente meno che degli anthem, degli inni, sono degli anthem da stadio e non solo da stadio, incredibili. Io citerei il pezzo d'apertura di Ljubav, alcuni versi che sono molto significativi e recitano così: questo è il paese per noi, questo è il paese per tutta la nostra gente, questa è la casa per noi, questa è la casa per tutti i nostri bambini. Nel paese vedo la salvezza. Dal sogno mi sveglia una voce che non conosco. Mentre i rami accarezzano i nostri corpi, mentre le ombre ci preparano un riparo. Sento, torna indietro, resta qui. Sento, torna indietro, perdonami. Non te ne andare, non te ne andare, no. E sono, secondo me, dei versi che hanno un livello di suggestione enorme e sono anche dei pezzi semplici che, se abbiniamo al contesto dell'epoca, sono di una poesia e di un significato pazzeschi, incredibili. E loro non parlano solo a nome del proprio popolo, loro parlano a nome di tutti i 25 milioni di abitanti della Jugoslavia, si portano il carico di questa responsabilità, una cosa che aveva fatto Tito e una cosa che nessun altro ha fatto a livello politico. Gli Ekaterina Velika a livello artistico furono il gruppo che riuscirono a esprimere meglio questo tipo di volontà di unione che in fondo si nascondeva dietro tutte le fissazioni nazionalistiche delle varie repubbliche. Strah. 16:32 minuti primi, sempre in ascolto di This Is Not An Exit. Beh, stiamo parlando della Jugoslavia, un tema delicato, diciamo. Sicuramente non ci sono molti dubbi sul fatto, però, che la soluzione jugoslava, quella che durò, appunto, come diceva prima il dottor Valenzano, per circa una quarantina d'anni, fosse una soluzione artificiale. Legittimamente era facilmente censurabile, come hanno fatto per anni migliaia di jugoslavi, tra i più odiosi e dispotici. C'è poco da fare, Tito aveva un regime che non era esattamente morbidissimo, non era quello russo, però insomma i tratti dispotici c'erano, ma poi alla fine la letteratura storica, la sociologia, la politologia, insomma, negli ultimi anni ricominciò ad affiorare nell'università di Belgrado e anche in quella di Zagabria, dove si cominciò a parlare di una purezza della lingua serba in confronto a quella croata, quindi a dissolvere il serbo-croato e viceversa, a difendere una purezza della lingua croata contro quella serba. Insomma, i germi c'erano già, proprio in questi anni Ottanta. Le università avevano un minimo di loro autonomia, ci si misero anche intellettuali, pope, preti da una parte e dall'altra, politici, burocrati che, appunto, una volta morto Tito e finito la sua autorità, autorevolezza, si misero a lavorare acremente per avere i loro piccoli luoghi di potere, senza che ci fosse una vera e propria oggettività, finché i beni primari cominciarono a scarseggiare. Tonema, il pezzo di chiusura di Ljubav, l'album dell'87 di Ekaterina Velika, a mio parere personale probabilmente il punto più intenso, più estremo di una certa rappresentazione artistica della depressione jugoslava del periodo. Dopo Ljubav, gli Ekaterina Velika tornano a pubblicare un CD due anni dopo, nel 1989, e il CD in questione si chiama Samo Pagodina Zanast, che in italiano significa solo pochi anni per noi. Ekaterina Velika avevano questo tipo di comunicazione molto diretta per il titolo dei loro CD, non facevano molti doppi giochi, i titoli dei loro CD erano molto chiari, erano molto esplicativi. In Samo Pagodina Zanast ci sono praticamente i pezzi più conosciuti di Ekaterina Velika. Probabilmente se oggi andate in Jugoslavia e insomma chiedete a gente del periodo di recitare a memoria i pezzi di quell'album, ve li sapranno dire probabilmente. È stato veramente uno degli album più venduti nella storia della musica jugoslava. Qua gli Ekaterina Velika continuano il loro discorso di contaminazioni tra alternative rock e vari generi musicali. E ci sono diversi gruppi, diversi pezzi che, come già detto, faranno la storia. Farà la storia anche la rappresentazione delle copertine dei loro CD. In Ljubav e in Samo Pagodina Zanast la protagonista dei CD è la loro tesserista, Margita Stefanovic. È anche facile interpretare il perché la protagonista e la figura principale delle loro copertine era proprio la bella Margita. Era una sorta di contrasto, un contrappunto tra il suo fascino e l'orrore di una guerra che ormai stava per incombere, di una guerra civile, ma anche di una sorta di dimostrazione che si voleva un rinnovamento fresco e giovanile, anziché questa continua costrizione al passato che non si riusciva a superare in nessun modo. E vi proponiamo adesso uno dei pezzi di questo album storico per la storia della musica jugoslava, proprio il pezzo più rappresentativo, Pagodina Zanast. Oh, Roma, raste kao bol i grize sve pred našim očima. Siamo arrivati quindi al 1991, è l'anno in cui esce un altro album degli Ekaterina Velika che si chiama Dum Dum. Dum Dum in per proporzioni slave è l'onomatopea corrispondente al nostro Bang Bang, il suono di una pistola. E non vi so nemmeno a spiegare per quale motivo gli Ekaterina Velika chiamarono il CD in questo modo. Infatti di lì a pochi mesi scoppiò la guerra civile tra Croazia, Slovenia e Jugoslavia. Croazia e Slovenia dichiararono la propria indipendenza e la Serbia, che fece riemergere tutti i peggiori miti nazionalisti per via del leader del partito comunista di allora, Milošević, uno dei più grandi criminali della storia dell'umanità forse, dichiarò guerra a Croazia e Slovenia e mandò le proprie truppe in quei territori in nome del mito della Grande Serbia. Il mito della Grande Serbia è un qualcosa che parte sin dall'anno 1000. La Serbia ha sempre avuto questa preoccupazione di dover invadere svariati territori per poi tornare a casa con perdite e disfatte inimmaginabili. La Serbia ha lanciato guerra a tutti, ma non ha vinto mai contro nessuno. Tant'è che nel 1914 la prima guerra mondiale scoppia perché la Serbia tendeva a impadronirsi dell'impero asburgico, insomma un obiettivo alquanto improbo. E qua a inizio anni 90 siamo di nuovo così: la Serbia dichiara guerra a tutti e prende botte da chiunque, prende botte dalla Croazia, prende botte dalla Slovenia, che sono molto più avanzate, che si guadagnano così la loro indipendenza. Il bagno di sangue iniziato lì è praticamente solo la punta dell'iceberg. I peggiori massacri avvengono altrove, avvengono in Bosnia e Erzegovina. In Bosnia e Erzegovina il numero di morti raggiungerà le 200.000 unità, una cosa incredibile, un orrore impossibile. Cominciano a riemergere anche cose che si pensava fossero morte e sepolte ai tempi della Seconda Guerra Mondiale: campi di concentramento, deportazioni, massacri nelle piazze. È uno scenario veramente orribile, e che porterà all'irrimediabile distruzione della Jugoslavia dopo un conflitto tra serbi e croati che durerà dal 91 al 95. Che finirà, per quanto riguarda la Bosnia-Herzegovina, nel 95 grazie all'accordo di Dayton, la Bosnia che diventerà repubblica indipendente su base federale. La Serbia rimarrà unita solo al Montenegro fino al 2003, quando cambieranno il nome in Serbia e Montenegro, e poi si decideranno a dividersi definitivamente nel 2006 e diventare completamente autonome. Nel mezzo, gli Ekaterina Velika pubblicano un CD nel 93 abbastanza deludente, che si chiama Neko Nas Posmata. E dopo questo CD, il leader Milan Mladenovic va in Brasile, si prende una pausa, scappa anche dalla situazione scoppiata in Jugoslavia e va a raggiungere un suo amico, che era scappato anche lui qualche anno prima, e forma un progetto abbastanza particolare, gli Angels Beat, un progetto di world music in cui suonavano praticamente di tutto, dalla musica popolare brasileira alla musica balcana. C'erano influenze del chitarrismo di Robert Fripp, c'era folk, c'era la musica elettronica, c'era insomma tutto quello che potresti immaginare possa fare, potete trovare in un CD di world music. La storia di Ekaterina Velika finirà dopo il ritorno in patria di Milan Mladenovic, e dopo vi diremo come finirà la storia di Ekaterina Velika. obrijani da sam lej, toplo je na jastuku. U polosnu miriše na doručak, prijetan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo. Na doručak prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo, počelo je. Quindi siamo alla fine della guerra in Jugoslavia, ogni repubblica adesso ha la propria autonomia, la propria federazione indipendente e autonoma dalle altre. E che cosa rimane a questo punto di Ekaterina Velika? Ekaterina Velika probabilmente avrebbero continuato a fare CD, avrebbero probabilmente aperto nuovi orizzonti alla loro musica, dato il progetto di cui vi stavo parlando prima, gli Angels Beat, in cui confluivano diverse contaminazioni musicali provenienti da un po' tutto il mondo. Ciò invece non avverrà, perché il destino si abbatterà su Ekaterina Velika, una sorta di maledizione senza via di scampo. Il leader, Milan Mladenovic, una volta tornato dal Brasile, viene colto da un cancro al pancreas e in 3 mesi lo stronca, muore. Quattro anni dopo, il bassista Bojan Pečar viene trovato morto a Londra in circostanze che ancora oggi non sono ben chiare. Per quanto riguarda la tastierista Margita Stefanovic, la protagonista delle copertine, simbolo anche se vogliamo di Ekaterina Velika, cadrà in depressione nel corso degli anni 90, ricorrerà ad un uso massiccio di droghe e morirà per HIV nel 2002. Insomma, non ci sono più i testimoni del nucleo iniziale degli Ekaterina Velika. Rimane il fatto che Ekaterina Velika hanno lasciato, soprattutto in Serbia e in Croazia, un testamento artistico e dei ricordi molto importanti, perché come detto prima hanno rappresentato la voce e la sofferenza di un popolo. Tant'è che tutt'oggi si possono trovare a Belgrado, a Podgorica e in Zagabria, a Zagabria, delle strade, degli edifici, dei monumenti intitolati a Milan Mladenovic. È trattato lì come fosse per noi un Leopardi, come se fosse un Manzoni. È una figura, è stata una figura molto importante nel Novecento jugoslavo, e anche Ekaterina Velika artisticamente non solo lo sono stati. Noi siamo arrivati non solo alla fine di questa puntata sulla Jugoslavia, ma siamo arrivati anche alla fine della stagione di TCS Not an Exit. Dovremmo piangere, insomma, io ho dato una scorta di fazzoletti, cioè. Con calma, altrimenti allaghiamo tutto, già piove fuori, per cui... Siamo a rischio cortocircuito. Comunque, salutiamo tutti i nostri pazienti, gentili, ascoltatori, ascoltatrici. Rinnoviamo l'invito a riascoltarci, però a questo punto, alla prossima stagione, qui a Radio Città del Capo. Per This is not an exit dovremmo essere sempre allo stesso orario, allo stesso giorno, chi lo sa, vedremo. Comunque, buon pomeriggio a tutti, vi lasciamo a If the Kids Are United, dopo questa puntata sugli Ekaterina Velika, che non, immagino non molti di voi conoscevano. Che dice Sino Corria? Lei li conosceva? Ma assolutamente no, infatti cioè, il nostro socio Michele ha dato il meglio di sé, cioè, ma io l'ho sempre detto, questo ragazzo è un ragazzo che farà molta strada, sai. Dottor Corria, se la ringrazio, le porto la mia parcella al fine di questa stagione. Va bene, buona serata a tutti e buon ascolto con Radio Città del Capo. Ciao a tutti. Ciao.